Questa decima edizione del rapporto di Legambiente sulle ecomafie conferma che il fenomeno della criminalità ambientale è un fenomeno sostanzialmente in crescita, malgrado i passi avanti compiuti nella azione di contrasto delle forze dell'ordine e della magistratura. Aumenta soprattutto il business dello smaltimento clandestino dei rifiuti, aumenta e di molto l'abusivismo edilizio, che molto spesso vede proprio le ecomafie in prima fila come imprenditori clandestini. Nel 2003 vi è stato un vero e proprio boom delle attività di costruzione illegale, 40.000 nuove costruzioni abusive contro le 28.000 di due anni prima, del 2001. Poi ci sono anche altri capitoli dell'azione delle ecomafie, per esempio l'importazione e il commercio di clandestino di animali importati malgrado siano appartengano a specie a rischio oppure utilizzati per combattimenti sempre clandestini. Poi c'è il furto e il commercio clandestino delle opere d'arte. Insomma, le ecomafie sono purtroppo vive e vegete, e questo anche perché mentre, come ripeto, è andato avanti il lavoro dei carabinieri, della polizia, di molti magistrati, manca ancora un passo decisivo, che è quello di inserire finalmente i delitti ambientali nel codice penale. Oggi chi smaltisce clandestinamente rifiuti, chi costruisce abusivamente, rischia spesso poco più di una multa, e questo di fatto rappresenta un incentivo alle imprese delle ecomafie. Per quanto riguarda il settore dei rifiuti, le aree del paese dove le ecomafie imperversano sono sempre quelle del cosiddetto quadrilatero, fatto di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Qui una gran parte delle attività di smaltimento dei rifiuti, soprattutto dei rifiuti industriali, è in mano alla criminalità organizzata, e da questo punto di vista bisogna dire che fino a quando nel nostro sud non decollerà un sistema efficiente, moderno, di smaltimento dei rifiuti, non partirà la raccolta differenziata e quindi non si ridurrà anche la quantità di rifiuti che poi rimane da smaltire in discarica o da bruciare nei termovalorizzatori, sarà molto complicato sconfiggere le ecomafie, che sono estremamente organizzate e dal loro punto di vista estremamente efficienti. Da quasi 10 anni le 4 regioni a più alto rischio di criminalità del sud sono commissariate per ciò che riguarda i rifiuti. Questa stagione lunghissima non ha prodotto i risultati sperati, e così da una parte si assiste a fenomeni come quelli di questi giorni di popolazioni, di comunità che rifiutano la collocazione dei rifiuti sul loro territorio, e dall'altra la criminalità continua a avere mano libera.